100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Tra i numeri sull'occupazione che vediamo a cadenza mensile sono passati piuttosto inosservati quelli annunciati dall'Istat alcuni giorni fa, che ci dicono dei 400.000 lavoratori indipendenti che sono stati letteralmente spazzati via dalla lunga crisi tra il 2008 e il settembre 2016. Un colpo pesantissimo a quel mondo variegato delle partite IVA che, stima sempre l'Istat, può ancora contare su una presenza di 5.400.000 autonomi, ma appunto il 7,1% in meno rispetto al 2008. La cosa naturalmente è ancor più preoccupante perché questi 400.000 lavoratori scomparsi dalle statistiche sul lavoro autonomo non sono entrati poi in quelle sul lavoro dipendente, quindi parliamo di lavori veramente persi. Insomma, sembra non funzionare più l'idea del lavoro autonomo come scelta volontaria di percorso da intraprendere e purtroppo neppure come alternativa al lavoro dipendente quando il lavoro dipendente non si trova. Soffrono sia le attività professionali storiche, quelle degli albi per intenderci, sia i mestieri artigianali, sia le nuove attività dell'informatica. Tutti sono accomunati da condizioni, regole fiscali, giuslavoristiche, burocratiche che si possono serenamente definire deludenti. Qualche speranza si era aperta con la riforma che molti avevano chiamato il Jobs Act degli autonomi, ora però ferma in Parlamento. Vedremo se il nuovo Parlamento saprà cogliere i bisogni reali di un esercito di oltre 5 milioni di lavoratori autonomi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Oggi è il petrolio il vero re dei listini, è balzato anche sopra i $54 al barile e i future, vale a dire i titoli ancorati alle quotazioni attese proprio del greggio, si sono già portati avanti a $57 al barile. Si tratta del più forte rialzo dal luglio del 2015. La causa è l'accordo raggiunto sabato a Vienna tra i paesi OPEC e i paesi non OPEC, cioè gli 11 stati produttori di greggio che non aderiscono al cartello guidato dai sauditi, dove siedono Russia e Messico tra gli altri. Il valore strategico di quell'intesa è grande, visto che si tratta di un protocollo che non si vedeva da 15 anni e copre il 60% della produzione globale di petrolio. L'accordo prevede che al taglio già previsto dall'OPEC, vale a dire 1,2 milioni di barili al giorno, si affiancherà anche quello dei paesi non OPEC, che somma i 300.000 barili di Mosca agli altri 258.000 dei 10 paesi coinvolti nel cartello non OPEC. Le borse hanno reagito in negativo su quasi tutte le piazze perché l'aumento del prezzo del petrolio fa avvicinare l'obiettivo di un rialzo dell'inflazione, cui è legata la scelta di aumentare i tassi di interesse da parte della Fed americana, che a questo punto sarà obbligata a rialzarli dello 0,25%, probabilmente entro la fine dell'anno. Tuttavia, alcuni analisti non considerano la quotazione a $57 come stabile e molti convergono nel considerare il prezzo più realistico poco sopra i $50 per tutta la prima metà dell'anno e immaginano un aumento più vicino ai $60 verso la seconda parte del 2017. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. We'll be right back.